in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Oggi ultima domenica di novembre, prima domenica dell'avvento, quindi in Germania per esempio, e io ho origini tedesche in parte, quindi è il giorno in cui si accende la prima di queste candele, delle Adventkranz, le corone dell'avvento. Oggi, come sapete, in Lombardia, ma anche in altre regioni che da rosse sono diventate arancioni, verranno riaperti alcuni negozi, quindi si suppone, e questa è anche naturalmente una preoccupazione, che ci saranno molte persone che andranno a fare acquisti magari appunto legati al Natale. Se dovessi trovare una corona dell'avvento, magari comprerò quella. Ma i giornali si concentrano appunto, avete sentito il Sole 24 Ore di oggi, a due pagine su queste tutte le novità del cosiddetto decreto ristori quater, quindi il quarto, e i giornali si concentrano su questo, perché almeno su questo ci sono alcune certezze, sul fatto per esempio del cosiddetto cashback, cioè la possibilità, se si fanno acquisti con i metodi di acquisto elettronici, di avere dei rimborsi poi accreditati direttamente sui conti correnti, e questa è una cosa pubblicata in Gazzetta Ufficiale, quindi un'altra certezza. Poi invece ci sono tutte le cose avvolte ancora nel fumo, e su queste si concentrano in realtà le aperture di molti giornali, non quella del Sole 24 Ore, che parte appunto da una serie di certezze che abbiamo, che sono quelle del nuovo decreto. Ganasce fiscali, ipoteche, tutte le novità del ristori quater. In prima pagina sul Sole 24 Ore anche un'intervista poi al presidente di Confindustria, credo non ci sia bisogno di sottolinearlo, ma lo faccio comunque. È presidente di Confindustria, Confindustria è l'azionista di maggioranza di questo gruppo, il gruppo Sole 24 Ore, che controlla, oltre al quotidiano di cui stiamo parlando, anche naturalmente la radio. E in questa intervista, che poi trovate a pagina 4, il presidente Bonomi dice: rischiamo di non sfruttare le opportunità dell'Unione Europea. Perché un'altra cosa su cui per ora ci sono ancora solo anticipazioni, ma di cui si comincia a parlare con qualche dettaglio in più, è appunto come chiedere, quindi il recovery plan, per chiedere i 200 e passa miliardi del recovery fund, cioè quei soldi messi a disposizione dall'Unione Europea per riprendersi dopo la pandemia, non naturalmente soltanto all'Italia, ma l'Italia ne ha la parte più importante. Corriere della Sera, e l'apertura: Natale, le date dei divieti, ripeto, non c'è niente di certo, quindi vi leggo le prime righe dell'articolo e capirete di che cosa, appunto, che si tratta di ipotesi. Restrizioni in arrivo per la settimana prima di Natale, questi gli orientamenti del governo che sta ancora discutendo. Ecco, questo è appunto il tenore poi del lungo articolo, dei lunghi approfondimenti che trovate all'interno. Una altra cosa di cui si discute molto, e anche qui è praticamente soltanto chiacchiericcio dietro le quinte, è quella di un possibile rimpasto di governo. I dubbi del Colle sul rimpasto di governo: Conte apre 6 manager per i fondi dell'Unione Europea. Questo fa un po' seguito alle dichiarazioni che il Premier Conte ha fatto qualche giorno fa in una puntata di 8:30, la trasmissione di Lilli Gruber sulla 7, dove diceva, appunto, incalzato su come si stia organizzando la questione del recovery plan e poi di come gestire i miliardi che arriveranno del recovery fund, aveva detto: ci organizzeremo in modo da avere anche, oltre ai responsabili politici, dei manager per gestire questi fondi, e vedremo. La Repubblica: pronta la mappa dei centri per distribuire i vaccini. Ecco, questo naturalmente è un tema molto importante, visto il disastro che c'è stato in Lombardia e in altre regioni sulla somministrazione, la distribuzione, prima di tutto la distribuzione ai medici di base, che ne avevano prenotate molte dosi, ne hanno ricevute meno e in ritardo, per quanto riguarda i vaccini antinfluenzali e per contro la polmonite. Polivalenti, tra l'altro, perché sono vaccini che quelli per la poliomielite, che proteggono da molti tipi di pneumococco. Ma quindi, visto il disastro in Lombardia e in altre regioni, Questo è naturalmente un tema molto importante, perché non soltanto bisognerà assicurarsi un numero elevato di dosi, e tra l'altro qui dobbiamo usare il plurale, sapete che ce ne sono almeno 3 di vaccini che potrebbero essere potrebbero arrivare in Italia, e poi naturalmente come farli, perché ripeto, in Lombardia e altre regioni ci sono stati, c'è stato un problema di approvvigionamento, ancora adesso mancano grande parte delle dosi che erano state richieste, e poi anche di somministrazione. Un portale traccerà le fiale, previsto un hub ogni 30.000 abitanti, sarà utilizzato anche l'esercito. Anche qui si tratta di ipotesi sulle quali Repubblica titola. Con Repubblica in edicola come ogni domenica l'Espresso, e questa settimana è il titolo è Dies Irae, che sapete vuol dire i giorni dell'ira, i giorni della rabbia. È anche sempre una parte di qualsiasi requiem, perché i testi dei requiem, quello di Mozart, quello di insomma chi ognuno penso abbia il suo preferito, si dividono appunto in in brani diversi. Uno di questi è il Dies Irae. E perché questo titolo? L'illustrazione, la foto è un primissimo piano proprio di Papa Francesco, il rinnovamento della Chiesa, l'operazione pulizia e trasparenza in Vaticano, l'economia giusta, l'alleanza con gli Stati Uniti di Biden e i nuovi cardinali per il futuro conclave. Così Papa Francesco rilancia la sua rivoluzione. Sapete che proprio ieri Papa Francesco, lo vedremo su alcuni giornali, ha nominato 16, mi sembra, o 16 o 13, dopo ve lo dico con certezza quando arriviamo al titolo, nuovi cardinali. La Stampa apre su un'intervista al ministro della giustizia Bonafede, e il virgolettato è: giù le mani da Conte e no al rimpasto. L'intervista poi la trovate pagina 3 della Stampa, l'ha fatta Andrea Malaguti. No al rimpasto, il MES non ci serve, torniamo sul tema del MES, assurdo dire che il governo è fermo. Il Messaggero: Natale, si spostano solo i parenti, quindi anche qui un altro titolo su però indiscrezioni, perché su queste misure ancora non ci sono certezze. E il Messaggero però ipotizza: dal 19 dicembre la mobilità tra regioni sarà consentita ai congiunti stretti e ai residenti, coprifuoco confermato anche la sera del 25, vaccini, Italia in ritardo, poche dosi a gennaio. Avvenire, embrioni come oggetti. Perché questo titolo? Perché c'è Avvenire pubblica quello che viene definito un reportage shock attraverso India, Nepal, Ucraina, Gran Bretagna e Francia. Così prospera il mercato dell'utero in affitto, e adesso spunta anche il trasporto tra paesi e continenti di esseri umani concepiti. E poi il concistoro, e quindi vi dicevo la nomina dei nuovi cardinali, che naturalmente è la foto, c'è anche questa foto molto suggestiva come sempre di queste cerimonie religiose, e poi il dettaglio sui nuovi cardinali e anche le parole che Papa Francesco ha usato per accompagnare queste nuove nomine. E poi vi segnalo anche un aggiornamento, quello che anche qui secondo l'Avvenire sarà l'orientamento del governo, l'obiettivo del governo: Italia tutta in giallo dal 18 dicembre. Sapete che in giallo ci sarebbe anche il verde, ma in verde non c'è stata per ora alcuna regione, la possibilità di restrizioni minori rispetto al verde è quella del giallo, quindi Italia tutta in giallo dal 18 dicembre. Il giornale ha un titolo che è abbastanza simile a quello della Verità, e che riguarda questa altra ipotesi su una possibile patrimoniale, cioè una tassa sui patrimoni oltre ai 500.000 euro. Anche qui sono per ora ipotesi. Comunque il giornale titola: agguato patrimoniale, blitz della sinistra, ipotesi imposta oltre i 500.000 euro, casa compresa. Lite sul MES, un carrozzone di 300 persone per i fondi dell'Unione Europea. Vedete come variano proprio le interpretazioni, ma ripeto, si tratta di interpretare delle voci. Quindi da una parte il Corriere della Sera che ipotizza 6 manager per gestire i fondi dell'Unione Europea, il giornale che scrive un carrozzone di 300 persone per i fondi dell'Unione Europea. Conte a picco nei sondaggi, no al rimpasto. La fotonotizia vede Alessandro Di Battista che guarda a un cucciolo di lama che guarda fisso chi ha scattato la fotografia, e c'è un approfondimento di Francesco Maria Del Vigo che prende spunto da alcune dichiarazioni di Alessandro Di Battista, che al momento, sapete, è un esponente del Movimento 5 Stelle ma non ha incarichi ufficiali né è parlamentare della Repubblica. Il titolo è «Dibba si veste da Hezbollah, il problema è l'islamofobia». La verità, regalo di Natale, due punti, la patrimoniale, stangata dai 500.000 euro in su, scrive Maurizio Belpietro nell'editoriale, nel pezzo di apertura, e comunque viene poi questa come ho detto, è un titolo abbastanza in linea con quello del giornale. Come avevamo anticipato, con la scusa della pandemia, il governo più a sinistra della storia progetta di mettere le mani nelle tasche degli italiani con un emendamento alla manovra. Questa sarebbe l'ipotesi: basta avere un'abitazione e un po' di soldi in banca per cadere sotto la mannaia. Sulla questione delle nomine dei cardinali, come potete immaginare, la verità è molto critica. La verità è forse il giornale che più duramente in questi anni, dalla sua nascita direi, è un quotidiano fondato e diretto da Maurizio Belpietro, ha criticato Papa Francesco, e quindi il titolo dell'articolo di Lorenzo Bertocchi è... E quindi ecco, non 16 ma 13 cardinali nominati ieri. Bergoglio blinda la successione a se stesso. Ieri altri 13 cardinali, tutti progressisti o, come dice lui, avanzati. Libero, la Chiesa è allo sbando, Papa in difficoltà, il Vaticano prende ordini da tutti tranne che dal Pontefice, poiché non vuole dispiacere ai poteri mondali. Così si perde il senso religioso. E queste tesi le spiega poi Antonio Socci dalla prima pagina, poi trovate tutto a pagina 3. Mentre Melania Rizzoli, che sapete di professione, oltre che scrivere per Libero, è anche medico, ipotizza quello che potrebbe essere successo nelle ore che hanno preceduto la morte di Diego Armando Maradona. Nella notte tra mercoledì e giovedì, Diego Armando Maradona poteva salvarsi, nessuno si è accorto dell'edema polmonare, un delitto. Questa è un po' l'interpretazione. Il Manifesto, Nouvelle Vague, questo gioco di parole, come sempre. Nouvelle Vague, sapete, oltre a significare molto semplicemente tradotto la nuova onda, in realtà è anche il nome che era stato dato a un movimento culturale, ma in questo caso che nuova onda, quella delle proteste che ieri si sono viste in tutta la Francia contro le violenze della polizia nei confronti dei migranti. C'è stato tra l'altro anche un pestaggio della polizia di un produttore di musica nero. E nei giorni prima era la foto di prima pagina di alcuni quotidiani francesi di venerdì, da Libération a Le Monde. Ma c'è anche questa nuova legge in discussione in Parlamento, e le proteste sono anche su questa legge che impedirebbe, punirebbe la diffusione di immagini di prese fatte o anche filmati della polizia, girati non ufficialmente e poi diffusi. Ci lasciamo un attimo, sentiremo anche un aggiornamento sul meteo, poi vediamo anche gli ultimi titoli dei quotidiani che non abbiamo citato. In primo piano. Rieccoci ancora, buongiorno da Giulia Crivelli, buona domenica. Ci mancano ancora due prime pagine, quella del Fatto Quotidiano che apre su un'inchiesta del giornale sulla sanità e comunque sull'operato del presidente della campagna De Luca. De Luca inventa posti letto fasulli, le accuse di un infettivologo di Salerno. E sul disastro della regione Campania, ricorderete tutti, apparentemente risparmiata dalla prima ondata di Covid, ricorderete le infelici frasi di De Luca sul fatto che in Lombardia si contavano i morti e i lanciafiamme con i quali si sarebbe presentato alle feste di laurea. Ora sappiamo, per la seconda ondata la Campania è una delle regioni più colpite ed è, come purtroppo molte regioni del sud dal punto di vista della sanità, totalmente impreparata. Inutile naturalmente citare il caso della Calabria, ma per quanto riguarda la Campania, il Fatto Quotidiano quotidiano dice, il presidente cita questi audio di questo infettivologo, il presidente alla sua ragnatela, qui se danno i dati veri la gente va nel panico. E poi, tanto per aggiornarci anche sul disastro della Calabria, dove adesso c'è un nuovo commissario e vedremo se riuscirà in qualche modo a risolvere, a migliorare o almeno ad affrontare i problemi, sanità in Calabria, a Cosenza sparite fatture per 8 milioni. E questa, dice il Fatto Quotidiano, sarà appunto la prima grana per Guido Longo, che è il nuovo commissario per la sanità in Calabria. Il Domani, il quotidiano, come sapete, in edicola dal 14 settembre, diretto da Stefano Feltri, suo del direttore, l'editoriale, la ripresa dopo il Covid dipende dagli statali. Perché questo titolo? Perché analizzando i dati dei dipendenti pubblici si evince che il 2%, solo il 2% hanno meno di 34 anni. Basterebbe questo dato, scrive Stefano Feltri, a spiegare perché lo Stato italiano faticherà a gestire i 209,7 miliardi europei di un piano che dovrebbe essere dedicato alla Next Generation EU, che naturalmente si può anche leggere EU come dire la nuova generazione dell'Unione Europea, European Union, ma anche voi, nuova generazione, prossima generazione. Negli ultimi 10 anni gli statali si sono ridotti di 212.000, il famoso blocco delle uscite anticipate, poi il blocco del turnover, cioè di assunzioni che appunto compensino le uscite. Abbiamo fermato gli ingressi, tanti funzionari bravi si sono trovati circondati da colleghi sempre più vecchi, spesso poco motivati, comunque inamovibili, e da un esercito di precari che conta ormai 350.000 persone. E sicuramente il problema della pubblica amministrazione, uno dei problemi che prima del Covid, di cui ogni tanto prima dello scoppio dell'epidemia, poi sappiamo pandemia, si parlava, adesso è stato un po' messo nel dimenticatoio, ma in realtà andrà affrontato. L'apertura vera e propria però è affidata a un economista, Mario Macis, sul tema dei vaccini, preso dal lato di chi il vaccino ha paura a farlo. Mercoledì dovrebbe arrivare questo piano del governo, di cui abbiamo visto da anticipazioni Repubblica, come far cambiare idea a chi ha paura del vaccino anti-Covid. Secondo le ultime indagini, il 40% degli italiani non vuole vaccinarsi, e non si tratta solo di complottisti o di Novax. E vabbè, vedremo come proseguirà questa questione. Andiamo alle pagine interne, vi dicevo, l'approfondimento proprio a proposito di come usare il recovery fund, pagina 4 del Sole 24 Ore, Bonomi, il rischio di perdere l'occasione recovery è alto, pesano i problemi, e qui torniamo alla pubblica amministrazione, l'industria ha mostrato capacità di reazione ma ripresa soltanto nel 2022. E qui lo ricordo, non perché questo è il quotidiano, non perché questo quotidiano, il Sole 24 Ore e il gruppo del quale fa parte hanno come azionista di maggioranza Confindustria, ma ricordo che nel terzo trimestre c'è stato un PIL del rimbalzo, il nostro è un paese manifatturiero, quindi è una ripresa dovuta soprattutto a quel motore che è l'industria, e da qui appunto il titolo, l'industria ha mostrato capacità di reazione. Dal Sole 24 Ore di oggi vi segnalo anche la serie che si alterna di quella di A Tavola Con di A Tu Per Tu, cioè incontri con esponenti della cultura, della società civile, dell'economia, e in questo caso Monica D'Ascenzo ha incontrato Marco Balic, che forse insomma gestisce questa società che organizza le grandi cerimonie, è stato direttore artistico delle Olimpiadi di Tokyo, che rimandate nel 2020 dovrebbero, uso il condizionale perché ciclicamente vengono prospettati nuovi dubbi sullo svolgersi delle Olimpiadi nel 2021, lui però ne è certo, dice, regista, oltre a essere stato regista di altre centinaia di grandi eventi, ripercorre la sua carriera. Torneremo agli eventi dal vivo, ma in Italia serve innovazione, ha raccontato a Monica D'Ascenzo. Molto interessante l'approfondimento di Alberto Magnani che trovate oggi a pagina 11, il filo doppio Italia-Africa, nuova frontiera per il Made in Italy. Perché dico molto interessante? Primo, perché comunque l'Africa, il continente sempre dall'eterna promessa, un po' naturalmente con situazioni molto diverse da paese a paese, e poi soprattutto ci richiama, e lo troviamo anche su altri giornali, su un conflitto rinnovato in Africa in questo momento, che tra l'altro riguarda paesi che storicamente sono molto legati all'Italia, quello in Etiopia. Il dorso lifestyle la sezione lifestyle che esce ogni domenica all'interno del Sole 24 Ore, il pezzo principale molto interessante e molto comunque legato al periodo che stiamo vivendo, i sei luoghi distanti dove la natura ha il monopolio. Enrico Marro ci racconta: campioni di distanziamento sociale, di rara bellezza e lontani dai centri abitati, mete ideali per ripartire. Vi dicevo, la protesta in Francia, trovate un reportage di Stefano Montefiori a pagina 17 del Corriere. Fiamme e picconi, Parigi senza pace, il corteo antiviolenze finisce nel caos. E poi l'altra questione importantissima, quella dell'Iran. Si è molto parlato nei giorni scorsi, ho accennato anche ieri durante la rassegna stampa internazionale, questo viaggio prima di Mike Pompeo, segretario di Stato uscente, in Medio Oriente. Poi si è ipotizzato che Mike Pompeo e insieme al premier Netanyahu, senza che la maggioranza che sostiene Netanyahu lo sapesse, abbiano incontrato il principe saudita appunto in segreto, ma c'è stata una sorta di smentite incrociate non ufficiali fino in fondo. E poi c'è stato giovedì l'assassinio di quello che viene considerato Mohsen Fakhrizadeh, viene considerato lo scienziato dietro il programma nucleare dell'Iran, e ieri c'è stata una reazione dell'Iran. L'Iran accusa Israele di essere dietro questo assassinio di quest'uomo all'interno della sua macchina. Si ipotizza che ci sia stato, se non un ruolo, una via libera da parte degli Stati Uniti. L'articolo che trovate di Guido Limpio, pagina 19 del Corriere, dà conto delle reazioni di ieri dell'Iran, delle dichiarazioni di Iran: colpiremo al momento giusto. L'assassino l'Ayatollah Khamenei, il capo di Stato dell'Iran, dice: non cadremo nella trappola. Intanto c'è un intervento, giudicate voi quanto ufficiale, quanto efficace, dell'ONU. Il segretario generale Antonio Guterres chiede moderazione. Però invece dall'Unione Europea è arrivata anche lì un'altrettanto essenziale dichiarazione: è stato un crimine. E il Corriere della Sera, Giuseppe Sarcina per il Corriere della Sera, ha intervistato il politologo Jan Bremmer, che dice: azione sbagliata, ma chi la critica dimentica i raid ordinati da Obama. Perché questa è un'altra questione, appunto, su l'eredità che lascia in politica estera l'amministrazione Trump, che viene spesso confrontata giustamente con quella precedente, quella Obama, per vedere quali sono state appunto le azioni in politica estera. Tradizionalmente le amministrazioni democratiche sono un po' più interventiste di quelle repubblicane. Obama aveva fatto alcune cose alla luce del sole, diciamo, come appunto questi raid contro l'Iran. L'amministrazione Trump si è mossa in un modo diverso, per esempio siglando accordi molto grandi, anzi i più grandi di sempre, di vendita di armi all'Arabia Saudita, però non ha appunto in modo più trasparente e più chiaro non ha autorizzato raid, per esempio, contro l'Iran. Poi vi segnalo, anzi facciamo prima la pausa sul traffico, così raccolgo un pochino le idee, perché vorrei essere sintetica nel presentarvi questa intervista di due pagine di Aldo Cazzullo a Cesare Cremonini in occasione dell'uscita del suo libro, che trovate a pagina 30 e 31 del Corriere della Sera. Ma ci fermiamo prima per un attimo per una pausa, sentiremo gli aggiornamenti sul traffico. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie agli ascoltatori e alle ascoltatrici per l'ascolto, ma anche naturalmente a chi sta mandando messaggi al 349-238-6666, WhatsApp o SMS, e grazie in particolare all'ascoltatore che ha mandato una bellissima immagine appunto di una Adventkranz, una corona dell'avvento con la prima candela accesa. Vi dicevo, l'intervista di Aldo Cazzullo a Cesare Cremonini. Premessa, sono sempre molto colpita, perché purtroppo le eccezioni sono poche, della superficialità con la quale in Italia, lo so per certo, temo anche in altri paesi, si parla dei disturbi della psiche, e quindi di chi se ne occupa, prevalentemente gli psicologi e gli psichiatri. una superficialità che colpisce in particolare quando si parla, per esempio, di tutti i disturbi della sindrome dello spettro autistico, ma sicuramente anche di disturbi psichiatrici altrettanto gravi, come è la schizofrenia. Io non ho letto il libro di Cesare Cremonini, anche perché uscirà il primo di dicembre, si intitola Let Them Talk, quindi lasciali parlare, ogni canzone è una storia, e lo ha pubblicato Mondadori. Qui Aldo Cazzullo, che suppongo abbia letto il libro, intervista di due pagine, e i passaggi più che mi hanno veramente più disturbata, e, sembra invece che questo tema non disturbi particolarmente Aldo Cazzullo, sono quelli che appunto riguardano quella che Cesare Cremonini stesso definisce la sua schizofrenia, che gli sarebbe stata diagnosticata quasi per sbaglio, perché andò dallo psichiatra, risponde a una domanda di Aldo Cazzullo per accompagnare un'altra persona, poi gli raccontai di me, di quel che provavo, i sintomi crescenti, parla di questi sintomi e adesso si dice guarito, direi quasi miracolosamente, perché dice di aver preso soltanto dei farmaci molto leggeri, mentre quelli che in generale curano la schizofrenia, in particolare la schizofrenia paranoide, come sembra di capire, della quale sembra di capire abbia sofferto Cesare Cremonini, sono in realtà farmaci tutt'altro che leggeri. Poi dice di aver fatto una terapia invece della parola e si dice guarito, ed è per chiunque abbia avuto o magari per motivi professionali o personali a che fare con qualcuno che ha avuto una diagnosi di schizofrenia, le cose non sono affatto così semplici, e quindi ripeto, per l'ennesima volta mi stupisco di questo modo di affrontare un tema, in generale la malattia, ma in particolare di quelle che sono forse ancora tra le malattie più misteriose, quelle della nostra mente. Vi dicevo, il tema dell'Etiopia, poi passiamo velocemente anche ai supplementi domenicali. L'Etiopia, c'è un'intervista di un reportage di Giampaolo Cadalanu su quello che sta succedendo appunto in Etiopia. Tigrini sconfitti nelle vie di Macallè, ora è caccia ai leader. Le truppe del governo di Addis Abeba sono entrate nella città dopo un bombardamento di artiglieria e sono spariti i capi ribelli del Tigray. Ora, naturalmente fa molto effetto questa recrudescenza delle violenze in Etiopia, perché il premier Abiy Ahmed, primo ministro etiope, soltanto un anno fa ha ricevuto il premio Nobel per essere riuscito a portare la pace nel suo paese, soprattutto tra il suo paese e l'Eritrea. Purtroppo sembra che le cose siano molto più difficili anche in questo caso di quanto si potesse sperare. Ultima segnalazione prima di passare alle segnalazioni, ai supplementi della domenica, una bella profilo di Serena Tibaldi a pagina 31 della Repubblica su Carolina Cucinelli, che è una delle due figlie di Brunello Cucinelli, il fondatore dell'omonima azienda di abbigliamento di alta gamma, soprattutto partito dal Kashmir, perché in Umbria c'è quella che viene definita la valle del Kashmir. Carolina Cucinelli è brand manager dell'azienda di famiglia, che è anche quotata in borsa, che nel terzo trimestre è stata una delle poche ad avere un rimbalzo di vendite, e qui tra l'altro racconta di questa iniziativa che è presa per raccontare l'azienda, il borgo di Solomeo ristrutturato da Brunello Cucinelli, raccontarla appunto con questo video. La riscoperta dei borghi, dice, io sono nata qui, è stato incredibile guardare il paese di Solomeo ripopolarsi un anno dopo l'altro. Carolina Cucinelli ha 29 anni, sempre più famiglie oggi preferiscono trasferirsi in provincia, le capisco, la vita ha una dimensione diversa. Quindi un'intervista dove non si parla tanto di lusso e di alta gamma, ma appunto di un diverso stile di vita. Passiamo, come vi dicevo, ai supplementi della domenica. Iniziamo come sempre dal domenicale del Sole 24 Ore. In realtà prima un'ultimissima segnalazione, una bellissima intervista di Stefano Semeraro sulla Stampa a Julio Velasco, che è ex CT della pallavolo azzurra maschile argentino, che parla naturalmente di Maradona e dice: chi viene dalle periferie capisce Maradona, sfidò i potenti come Ali. Ora, avrete sicuramente assistito o forse anche partecipato al fiume di parole, al fiume di pensieri e di emozioni intorno alla morte di Maradona. tantissime critiche, e qui appunto si torna su questo tema della vita fuori dal campo di Maradona. È un'intervista molto bella, anche per il fatto che naturalmente anche Julio Velasco è argentino, anche Julio Velasco è un uomo di sport, e spiega, per esempio, gli chiede Stefano Semeraro: Maradona come il Che, come Che Guevara? E Julio Velasco risponde: no, piuttosto penso ad Ali. Tutti e due hanno sfilato i potenti, il grande pugile naturalmente, anche se poi Ali recitava un personaggio, mentre Maradona era sempre se stesso. E su Maradona, visto che abbiamo comunque poco tempo, vi segnalo un articolo che mi ha colpito molto, è uscito ieri sull'edizione del Weekend di Financial Times, che l'ha scritto e si intitola Why His Life Was a Triumph, no, a Tragedy, perché la sua vita è stata un trionfo non solo dal punto di vista calcistico e non una tragedia. È un articolo molto bello, anche breve, in stile molto anglosassone. Lo ha scritto Jan Ganesh, che è uno dei giornalisti del Financial Times che scrive di sport, e dice, il sommario dice: Why a lot of footballers break out of dire hardship, Maradona's through to peak ascent might be the most vertiginous of all. E ricorda appunto come questa ascesa di Maradona sia stata così vertiginosa, e poi naturalmente c'è stata anche la caduta. Veramente pochi minuti, la domenica del Sole 24 Ore, mi piace veramente oggi iniziarla, mi piace più del solito iniziarla dal breviario di Gianfranco Ravasi, che si intitola Sogni, e la citazione è questa: se ci chiudono la porta dei sogni siamo già morti. E scrive Ravasi: nell'antichità c'era persino una scienza, l'oniromanzia. Essa, molto prima di Freud e Jung, cercava di decifrare nei sogni una sorta di grammatica teologica. In quel mondo, ora dorato, ora drammatico, parallelo ma alternativo rispetto alla veglia, si celavano epifanie divine, messaggi occulti, oracoli profetici. La frase sopra citata, che abbiamo trovato assegnata all'attore e regista Roberto Benigni, è invece molto più realistica, nonostante l'apparente polvere di stelle che i sogni sempre sembrano trascinare con sé. Il tema proposto è infatti molto serio e concreto. Nel mondo in cui viviamo si cerca di soddisfare tutti i bisogni, ma si tarpano i desideri, cioè le grandi aspirazioni. Alla tensione verso i valori alti, non per nulla desiderio deriva dal latino sidera, cioè astri o stelle, e alla navigazione verso il mare, aperto e infinito del bello, del bene, del vero, nella loro autenticità e pienezza si sostituisce il piccolo cabotaggio, stando agganciati alla costa per non correre i rischi. E così, lentamente, si sprofonda nel grigiore, nell'inerzia, nel luogo comune, nella banalità. Ombre che vagano, anime morte che non conoscono la pienezza della vita autentica e la nobiltà del sacrificio. La copertina vera e propria però è un lungo articolo di Andrea Merlotti, Sua Maestà in posa da galantuomo, è la storia di Vittorio Emanuele II, il bicentenario della nascita del re, che seppur poco colto sapeva apprezzare le novità del suo tempo, ad esempio la fotografia. Ultimissima segnalazione, Robinson, supplemento culturale della Repubblica, un numero interamente dedicato a John Lennon, che fu assassinato l'8 dicembre del 1980, e oggi dopo 40 anni ancora immaginiamo All the people living life in peace. Era davvero l'ultima segnalazione. Un grazie a Gianmarco Ferronato in regia, un grazie a tutti voi per l'ascolto, e una buona domenica da Giulia Crivelli.